essere e benessere. Di Nicoletta Carbone. Lei quanti anni mi darebbe? Non saprei. Andiamo, senza cercare di adularmi. 38. 28. 3. 23. E voi, quanti anni avete? Perché l'età fa la differenza anche per quanto riguarda la salute e il benessere dei nostri occhi e della nostra vista. Allora chiamateci 800 24 00 24, diteci quanti anni avete, ma anche che lavoro fate, se passate molte ore davanti al PC, se state per lungo tempo alla guida. In studio con noi oggi il dottor Lucio Buratto, direttore del Centro Oftalmico di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno. Dottor Buratto, dimmi quanti anni hai e che cosa fai e ti dirò che, dottor Buratto, completi lei. Beh, diciamo che se uno ha 40 anni, per esempio, gli possiamo chiedere come fa a leggere, se legge bene un libro oppure se fa fatica o se allontana. Questo già è un segno, per esempio, di presbiopia. Se uno ha 60 anni e magari vede annebbiato con un occhio, può essere un primo segno di un inizio di qualche problema di cataratto, di maculopatia o di altri problemi. Quindi ogni età può avere i suoi problemi di vista. C'è anche un'età d'oro. C'è anche l'età d'oro, che è quella che va dai 18 ai 40, diciamo. 800 24 00 24. Che età avete, cosa fate e come ci vedete? Non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia nella forma. Dottor Buratto, l'occhio con gli anni cambia, si sviluppa e cresce, né più né meno del resto dell'organismo. C'è una correlazione interessante tra età, altezza, peso corporeo e lunghezza dell'occhio. Vogliamo prendere le misure? Sì, un occhio di un neonato è lungo 16 mm, per esempio, un occhio di un adulto è lungo quasi sempre intorno ai 24, quindi c'è una crescita sicuramente continua durante l'arco della vita che si completa intorno alla maturità fisica, come per le altre parti dell'organismo. A proposito di età, quanti mesi si completa lo sviluppo del sistema visivo? I bambini, quando sono piccini, cosa vedono? Beh, un bambino piccolo vede molto poco, d'altronde non ha bisogno della vista un neonato, comincia a averne bisogno quando un po' più grandicello, verso i 5-6 mesi, in cui si sviluppa il senso dei colori, la profondità degli oggetti, quindi è in grado di seguire i movimenti bene delle persone. Riconoscere proprio la faccia della sua mamma dalle altre. Esatto. Noi pensiamo che ci riconosca subito, lei lo sa, appena nato diciamo guarda come mi guarda, guarda me no. Invece no. Vede poco. Dottor Buratto, a proposito di bambini, è importante, voi lo sottolineate spesso, sottoporli a visite di controllo, le ripetiamo entro il primo anno per ricercare eventuali patologie congenite, verso i 3 per ricercare difetti visivi, ad esempio l'occhio pigro, prima di mandare il piccolo a scuola per ricercare difetti refrattivi, miopia, astigmatismo, ipermetropia, ma ai genitori all'ascolto, dottor Buratto, impresti il suo occhio clinico per aiutarli a individuare eventuali sintomi che solo un occhio attento può cogliere, così da evitare da un lato apprensioni e dall'altro magari ritardi che possono essere pericolosi. Una cosa molto semplice da fare è semplicemente mettere qualcosa davanti a un occhio e vedere come il bambino reagisce. Se non succede nulla vuol dire che l'occhio, diciamo, che guarda vede bene. Poi cambiando l'occlusione, mettendola dall'altra parte, si vede se la stessa reazione c'è dalla stessa parte, dall'altra parte. Se il bambino, quando si occlude un occhio, si lamenta subito, tira via, vuol dire che probabilmente con quell'occhio aperto vede poco e quindi magari può essere utile fare una visita. Ci sono dei bambini che si lamentano soprattutto in età scolare o ai primi anni di scuola perché si affaticano, vedono male alla lavagna, avvertono mal di testa. Come bisogna procedere in questi casi? Beh, quello è fondamentale, che un bambino venga visitato quando va a scuola o prima di andare a scuola meglio, perché anche se c'è un piccolo difetto, magari questo può però rendere difficoltosa l'applicazione scolastica, la lettura, lo studio, la visione. Non so se si usano ancora le lavagne adesso nelle scuole, con tutta la tecnologia che c'è in giro. Comunque anche vedere quello che scrive la maestra alla lavagna, eccetera. I bambini che stanno indietro di solito sono quelli più in difficoltà, quelli che stanno davanti magari sono un pochino più facilitati perché sono più vicini. Dottor Buratto, intanto che attendiamo dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24 le loro richieste, la loro età, la loro professione, quali sono magari i segnali che più li infastidiscono quando, ad esempio, devono leggere anche la lettura a letto, non solamente il lavoro al computer. Soffermiamoci ancora un attimo sui nostri bambini, invitando i genitori all'ascolto se hanno dei dubbi, naturalmente, a chiamarci. Come si fa a individuare precocemente l'occhio pigro? Beh, facendo questo test di cui abbiamo appena detto, di solito l'occhio pigro non è accompagnato da malattie, ma è accompagnato magari da un difetto che può essere di ipermetropia, di astigmatismo, di miopia. Di solito riguarda un occhio solo questo difetto, per cui il cervello del bambino, se deve guardare con un occhio che vede bene e un occhio che vede male, sceglie quello che vede bene e esclude l'altro, per cui quest'occhio diventa pigro e bisogna fare delle occlusioni, fare oltre che prescrivere la corretta lente e Per tutto il permettere resto. al cervello di imparare a Per vedere. permettere al cervello di guardare a vedere, perché è fondamentale capire una cosa, che la vista si sviluppa nei primi mesi, nei primi anni di vita, e quindi se un occhio non lavora in quell'età lì, la vista non si forma, non si forma bene a livello cerebrale, oltre che a livello oculare. Ma, dottor Buratto, l'età in cui è tassativo controllare la vista è intorno ai 40 anni. L'abbiamo detto in apertura, è l'età in cui, ahimè, i nodi vengono al pettine o se ne aggiungono altri. Allora, dottor Buratto, quali sono i segnali che noi non dobbiamo perdere di vista? Beh, diciamo quando l'occhio comincia a arrossarsi, a stancarsi, quando comincia a comparire mal di testa dopo un po' di lavoro visivo, quando gli occhi bruciano, vuol dire che c'è qualcosa che non va, che bisogna aiutare questi occhi. Perché noi dobbiamo dimenticare una cosa, che l'uomo per millenni e milioni di anni è stato abituato a vivere usando poco la vista, perché si alzava al mattino, guardava fuori. Sì, Alla sera non andava a c'era nulla, andava a dormire, dormire e l'occhio veniva non usato c'aveva la poco. TV. Adesso, fra computer, fra cellulari, fra televisione, fra guida della macchina, fra tutto il resto, fra soprattutto l'uso della luce artificiale che ha consentito alle persone di lavorare da praticamente 24 ore su Sempre. 24, e quindi l'occhio è sottoposto a un affaticamento notevole e quindi bisogna curarlo. Diciamo, curarlo vuol dire non tanto mettere delle medicine, curarlo vuol dire occuparsi della sua buona salute. Quindi, se avvertite stanchezza, rossore, dottor Buratto, anche degli aloni che possono in qualche modo rendere i confini, no? Degli oggetti, o soprattutto anche quando si osserva la luce verso sera. Se ci sono questi aloni intorno agli oggetti, è un segnale di stanchezza o un segnale di patologia? Diciamo, più di patologia o comunque di difetto visivo, per esempio un astigmatismo fa vedere un oggetto un po' allungato, se c'è una differenza fra un occhio e l'altro, un occhio vede limpido, l'altro vede meno limpido, quindi un po', diciamo, distorto o allonato o comunque annebbiato. Altre volte invece è proprio una patologia che può essere per esempio legata a un inizio di opacità del cristallino o qualche piccola opacità della cornea. Può essere anche indicativo la percezione dei colori, dottor Buratto, cambia negli anni? Beh, Li diciamo che più vediamo che altro sempre ci così sono. vividi oppure se notiamo dei cambiamenti, ce ne accorgiamo? Quello è un po' più difficile da notare, perché diciamo o ci sono delle vere e proprie assenze di colori, molte persone non vedono il rosso, qualcun altro non vede altri colori, allora quelli però sono difetti congeniti. Tendenzialmente è la persona anziana che può perdere un po' il colore o per la cataratta o per una maculopatia, ma siccome il cambiamento è molto lento e molto diluito nel tempo, difficilmente la persona si rende conto che i colori sono cambiati. Se ne rende conto quando, per esempio, si fa operare. Allora, Dice, ah, come vede, accidenti, come vedo bene adesso. soffro di daltonismo, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Ne approfitto per dirvi e per ricordarvi che potete sempre seguirci su Facebook e su Twitter e che l'hashtag di oggi è Occhio alla vista. Ci scrive, soffro di daltonismo, cosa posso fare? Che cosa può fare? Niente. Niente. Deve farsi aiutare, deve trovare dei modi per Diciamo che in genere orientarsi. queste persone riescono a cavarsela molto bene perché sviluppano comunque dei meccanismi che consente loro di percepire i colori anche se non li vedono. Io avevo una paziente che faceva le selezioni di tessuti di seta per una grande casa di moda e non vedeva i colori e Veramente. faceva delle scelte comunque A caso. stupende. Aveva sviluppato la sua arte, diciamo, nel scegliere questi colori. Francesco, buongiorno da Pavia, Rachele da Roma, benvenuta anche a lei. Francesco. Buongiorno e grazie per lo spazio, complimenti per la trasmissione. Allora, velocemente, perché poi chiudo e ascolto la risposta per radio. Va bene. Ipermetrope da bambino, dalle scuole elementari. Sì. Con una punta di astigmatismo sviluppatasi poi durante gli anni. La mia età è 54 anni. Sì. E nonostante gli occhiali, adesso uso gli occhiali multifocali, no? Quindi, ecco. Di mestiere sono autista di mezzi commerciali, conducente di birra in pratica. Sì. E ultimamente mi sono accorto che i miei anni piano piano sto facendo la fine, non so, di quello del palo della base dello spica, che non si vedeva per niente per la canzone lì di Iannacci. Non vedo, sì. Cioè, se io tolgo gli occhiali, non vede anche nulla. Da vicino. Sì. Francesco li tenga, no, non li molli mai. Non li molli mai gli occhiali, Francesco? No, io ho il terrore, io ho gli occhiali in macchina, un altro occhiale di scorta sul cranio, gli occhiali che porto sul viso sempre. Se tolgo gli occhiali, dove prima riuscivo a leggere, adesso non ce la faccio. Tutto. Io vedo anche a un chilometro, può contare quante macchine vedo, però dire, certo, quando toglie gli occhiali non ce le... No. Dottor Buratto. Beh, diciamo che è tipico dell'ipermetrope, oltre che avere problemi della vista da lontano, avere questi problemi della vista da vicino, perché all'ipermetropia si somma la presbiopia quando uno ha 54 anni. Diciamo che un'ipermetropia leggera, intorno a 1, 2, 3 diottrie, si può correggere bene con il laser, e poi occorre comunque l'occhiale da vicino. Se uno ha un difetto più forte, il laser aiuta poco, allora bisogna pensare eventualmente, se c'è la necessità, di fare un intervento di sostituzione del cristallino, correggendo contemporaneamente appunto l'ipermetropia e volendo anche la presbiopia, mettendo un cristallino multifocale di nuova generazione. Però bisogna, diciamo, vedere un po' l'entità, certo, del difetto. Certo, però queste, eccetera. Le opzioni ci sono. Le opzioni ci sono. 800 24 0024, aspettiamo le vostre telefonate, ne stanno arrivando molte. E noi cercheremo di dare voce più possibile ai vostri dubbi e alle vostre domande, perché vogliamo approfittare dal dottor Buratto per avere delle indicazioni su come mantenere efficiente la nostra vista, ma quali sono attualmente le opzioni terapeutiche per correggere eventuali disturbi visivi. Ma se la vostra telefonata non viene passata in onda o se non potete telefonare, può succedere anche quello, scriveteci entro le 12 a essere bene essere@radio24.it. Il dottor Buratto risponderà alle mail che arriveranno entro le 12 e noi naturalmente insieme a Laura Vanossi lo filmeremo e metteremo le sue risposte sulla pagina Facebook del programma. Rachele, buongiorno da Roma, benvenuta. Buongiorno e complimenti. Grazie. Dunque, io ho 32 anni, sì. E ci vedo molto bene, dettagli e tutto quanto. Brava. E il mio problema è che spessissimo ho davanti agli occhi dei puntolini neri che mi seguono quando muovo lo sguardo, quindi non si tratta di un'area in particolare della vista che ha dei problemi. Essenzialmente è come se avessi una... non so, come se ci fosse uno schermo davanti ai miei occhi dove ci sono dei puntini grigi o trasparenti o neri, insomma puntini che mi seguono mentre muovo gli occhi. Volevo sapere di cosa si potrebbe trattare. Dunque, è un disturbo molto comune, direi che almeno metà della popolazione italiana ha disturbi simili. Si tratta generalmente di piccole opacità che sono all'interno dell'occhio, nella parte centrale dell'occhio, quella che è chiamata vitreo. Questo vitreo normalmente è un liquido gelatinoso trasparente. Qualche volta questo liquido si scioglie un po', o meglio si scioglie con il passare degli anni, e quindi si muove di più. Non solo, ma si creano dei piccoli addensamenti di materiale semitrasparente che con i movimenti dell'occhio si muovono e danno questo disturbo. È una cosa molto frequente, diciamo, soprattutto nei miopi, ma in generale questo disturbo tende ad aumentare dai 30 anni in avanti, soprattutto più avanti verso i 40-45 anni, e poi anche negli operati agli occhi, tendenzialmente soprattutto negli operati di cataratta, questo è un disturbo abbastanza comune. Direi che non c'è una cura per queste cose, perché non è una malattia, non è una patologia, non è un danno, è semplicemente una, diciamo, perdita un po' di trasparenza di questo tessuto, di questo liquido. Però, dottor Buratto, io ho letto nel suo libro che ci sono delle indicazioni, ci sono degli alimenti da inserire nella dieta, soprattutto se si ha questo disturbo, che possiamo chiamare delle mosche volanti. Sì. Possiamo chiamarlo così. Delle mosche, puntini, moscerini, puntini. Serpentelli. Quando sono grandi sono mosche, possono essere calabroni. Ecco, però ci sono anche delle... Inserire nella dieta alcuni alimenti potrebbe aiutare. Quali, dottore? Sì, senz'altro. L'alimentazione è fondamentale per avere una buona vista. Beh, diciamo in senso generale, quello che può aiutare molto sono intanto un'alimentazione a base di frutta e verdura molto colorata, di tutti i colori, dal verde all'arancione, al rosso, eccetera, ma anche l'uso di abbondanti pesci, in generale di tutti i tipi di pesce, perché portano omega 3, omega 6, eccetera, eccetera, e poi sali minerali, componenti altri, per esempio presenti nelle noci, nelle nocciole, nella frutta secca, eccetera, e comunque in generale un'alimentazione basata poco con carne rossa, poco con grassi, poco con... E le mosche dovrebbero, insomma, volare e poi via. Bere molto, e bere molto. E questo è molto importante. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Il logorio della vita moderna stressa anche i nostri occhi, a cui chiediamo sempre il massimo in tante attività, lettura guida, uso del PC, il tutto svolto in ambienti, come ricordava dottor Buratto, illuminati da luce artificiale. Ma sono le 11:26, alcuni di noi avranno già gli occhi affaticati e stanchi, allora possiamo suggerire la regola del 20-20-20, dottor Buratto? Vogliamo raccontarla e spiegarla? Se diciamo che l'occhio ha bisogno di qualche secondo di riposo ogni tanto, quindi lavorare va benissimo, stare un quarto d'ora, 20 minuti al computer va bene, ma poi bisogna a un certo punto allungare la vista, cioè osservare qualcosa da lontano, in modo che l'accomodazione, quel meccanismo che permette all'occhio di mettere a fuoco la visione, si possa rilassare. E allora in questo modo, quando si riprende poi l'attività, è tutto più facile, diciamo, l'occhio è più riposato, eccetera. Quindi per prendersi una pausa dal computer ogni 20 minuti e fissare, questa è la regola del 20-20, per 20 secondi un punto a 20, che tradotto, no, come distanza in metri sarebbero 6 metri circa di distanza, per questo in inglese è 20-20-20, mentre da noi sarebbe 20-20-6. Ma comunque è anche sufficiente alzare lo sguardo, guardarsi un attimo intorno, parlare con una persona a qualche metro di distanza, oppure qualsiasi altra cosa, diciamo, che rilassi la vista per lontano. Ma se il computer a volte stanca, la regola questa che abbiamo suggerito del 20-20-20 o 20-20-6 tradotto in italiano riposa, la tecnologia non mette sempre la vista sotto stress, a volte aiuta a valutarla, a misurarla. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Carlo Chericoni, direttore di T3, la rivista di tecnologia. Ciao direttore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai radioascoltatori. Essere e benessere. E siamo tornati insieme oggi, occhio alla vista, 800240024, in studio con me il dottor Lucio Buratto, direttore del Centro Oftalmico di Milano, e in linea abbiamo Carlo Chericoni, che è direttore di T3, la rivista di tecnologia, perché oggi vogliamo parlare anche delle app che ci permettono di valutare e allenare la nostra vista. Carlo. Buongiorno, allora per poter valutare la nostra vista ci sono numerosissime applicazioni, tra cui segnaliamo iOcchio, scritto iOcchio, sì, che è tutta una serie di test che permettono di capire se siamo astigmatici, se siamo daltonici, tutta quella serie classica di test che vengono fatti dall'oculista. Un'altra applicazione molto carina è Eye Training Visual Edition, che malgrado il titolo sia in inglese, poi l'applicazione è in italiano, sì, e sono tutta una serie di piccoli giochi che permettono di allenare il nostro occhio, per esempio alla visione periferica o alla reattività a determinate immagini. Carlo, permetti, mi faccio una domanda al dottor Buratto. Allenare la vista e quindi far fare agli occhi una sorta di ginnastica aiuta? Certo, soprattutto se la persona è giovane, se l'occhio è ormai maturo, che ha fatto il suo sviluppo completo, un po' meno, però per esempio quando uno si avvicina all'età della presbiopia, per esempio se desidera, diciamo, allungare un pochino i tempi di utilizzo dell'occhiale, può allenare gli occhi e quindi sviluppare un'accomodazione un po' più veloce, un po' più efficace, e quindi rimandare un pochino di un anno o due, per esempio, l'uso È come dell'occhiale. portarli in Oppure, palestra, insomma. sì, oppure anche per la miopia, con un'opportuna ginnastica si può ridurre, diciamo, l'uso dell'occhiale. Grazie Carlo, quindi questa app la consigliamo ai presbiti e ai miopi proprio per allenarsi, ma ce ne sono altre, Carlo. Ce n'è una che stanno per lanciare a breve, che si chiama Glasses Off, ovvero via gli occhiali, che è stata testata dall'Università di California e propone tutta una serie di sempre di allenamenti per migliorare la velocità con cui il cervello processa le immagini e loro permettono un incremento dell'80% delle capacità di lettura da vicino. Straordinaria, e deve ancora uscire però questa. Questo deve ancora uscire, però Stiamo effettivamente. lì, dottor Buratto. Sviluppa la velocità di lettura o la capacità di leggere cose più piccole? Penso alla velocità. No, loro la promettono di migliorare la capacità di leggere da vicino. Beh, una Può bella essere interessante, promessa, sì. dottor Buratto. Carlo, altre app per incuriosirci? Io anche ne ho una. Ah. Eh sì, perché proprio oggi ho letto che c'è una nuova app dedicata alla salute degli occhi, scaricabile sempre gratuitamente, realizzata con gli specialisti di Humanitas, che si chiama iVista, con due aree proprio distinte, una dedicata agli adulti e una dedicata ai bambini. Ti ho stupito, Carlo? Molto, questo mi sembra molto interessante. Vero, Volevo perché segnalare, sì. scusa, una cosa molto carina, molto interessante, che è un oculista inglese che fa volontariato nelle zone africane di questi villaggi sperduti. Lui ha sviluppato un'applicazione per Android, scattando la foto dell'occhio del paziente, viene mandata una mail con la foto in alta risoluzione a un server dove viene poi valutata la possibile patologia che ha questo paziente. Quindi lui può fare diagnosi senza bisogno di portarsi dietro ingombranti attrezzature. Questa è un'app straordinaria, dottor Sì, Buratto, questo. permette anche di no, arrivare proprio in luoghi in cui il problema della diagnosi e della terapia, ci sono delle associazioni che si stanno impegnando molto, penso alla CBM, per evitare no, che i disturbi visivi rapiscano, rubino la vista alle persone. Sì, il problema in questi paesi è che la tecnologia non è disponibile, quindi sì, va bene fare le fotografie, probabilmente uno le può fare con una macchina digitale e conservarle, poi magari quando arriva in un centro attrezzato a fare la spedizione. Sì, con CBM abbiamo fatto parecchi lavori nel passato e ancora di recente abbiamo fatto un ebook per aiutare le persone. Anche noi abbiamo fatto un'applicazione proprio per testare le capacità visive, la stiamo facendo per l'esattezza. E ne abbiamo fatto anche un'altra in cui rendiamo disponibili alle persone tutta una serie di libri, di ebook per, diciamo, informarsi su quelli che sono i singoli problemi della vista. Grazie Carlo per essere stato con noi. Ricordo Carlo Chericoni, direttore T3, rivista di tecnologia. Buona giornata. Voi, arrivederci. Dottor Buratto, la primavera e le primavere mettono un po' in crisi i nostri occhi, sembra un gioco di parole, in realtà è sotto gli occhi di tutti. In questo momento dell'anno gli occhi lacrimano, si arrossano, prudono, è colpa dell'allergia, non sempre, ma è indicativa. Chi la conosce ma la sopporta. Allora, dottor Buratto, vorrei proprio chiedere a lei tre mosse per alleviare il disturbo. Beh, cercare di evitare cause irritanti, quindi le polveri, soprattutto i pollini in questa stagione, proteggere gli occhi evidentemente con delle lacrime artificiali o prodotti antiallergici e poi cercare di non strofinarli, di non sottoporli a sforzi eccessivi. Ecco, lo strofinamento che viene naturale è invece una tragedia perché peggiora la situazione Peggiora fino la a poi situazione. creare quasi delle abrasioni, vero? Diciamo, se uno ci va con la mano pesante, sì, ma generalmente uno si sente il prurito, si strofina, si delicatamente e quindi non succede nulla, però la rossa stanca di più l'occhio, praticamente lo irrita di più e quindi questo non è positivo. Purtroppo è una cosa molto frequente l'allergia, sempre più frequente, si vedono anche tanti bambini con le allergie. È un problema difficile da risolvere questo. Matteo da Padova e Angelo da Milano. Matteo, buongiorno. Buongiorno, grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io ho 45 anni, sì? E quando ero alle scuole mie medie mi è stata diagnosticata una fortissima astigmatismo, addirittura avevo i muscoli di un occhio praticamente atrofizzati. E recupero, ormai era tardi, ho recuperato pochissimo, da allora porto occhiali sempre. Negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, con l'avanzare dell'età, ho cominciato a notare un certo calo della vista ulteriore. E una visita mi è stato detto che più di questo praticamente con gli occhiali non riesco a fare, si può migliorare pochino ma non molto. Uh-huh. Allora la mia domanda è, l'operazione, come tanti mi suggeriscono, è risolutiva? Cioè tornerei a 10 decimi come mi pare di non aver visto in vita mia? Le si aprirebbe un mondo, Matteo. Nel frattempo io ho accumulato 25 paia di occhiali perché mi piacciono, quindi per me cambiare lenti è anche un certo investimento. Lo credo, dottor Buratto. Ma l'astigmatismo si può correggere bene con il laser o con altri tipi di interventi, soprattutto con il laser. Bisogna naturalmente vedere com'è l'occhio, eccetera, eccetera. Ma direi che quello che può essere una vista che non è stata sviluppata negli anni dell'infanzia, certamente non può essere recuperata adesso. Però tendenzialmente devo dire che si ottiene un miglioramento comunque, non solo nell'eliminazione dell'occhiale, ma anche nella qualità visiva, nel comportamento della persona, nel modo di muoversi, di usare gli occhi, eccetera, eccetera. Generalmente questi interventi danno molta soddisfazione, bisogna ripetere, vedere gli occhi come sono, ma io suggerirei una visita accurata e anche l'intervento. Restiamo a Milano con Angelo, prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Filippa Oreggi quindi sa che non sforerò. Angelo, buongiorno, sì, mi aiuti buongiorno. Lei rapidamente. Allora, ho 64, vi ringrazio innanzitutto, ho 64 anni, miope da adolescente, più astigmatismo però contenuti, poi con l'età si è aggiunta la presbiopia. Presbiopia, un classico. Classico, difficoltà enorme ad adattarmi alle multifocali. Allora, 8 anni fa, su consiglio dell'oculista, mi sono fatto operare di cataratta. Sì. E i risultati sono stati miracolosi. Dovevo solo avere degli occhialini per leggere in situazione di scarsa luce. Un anno fa, quindi passati 7 anni dall'intervento, ho fatto la cataratta secondaria per eliminare le macchie. Sì. Ecco. Ora comunque leggo un pochino meglio, però ho problemi per la guida. E sì. Guidando effettivamente ci vedo meno bene e un po' più di fastidi. La domanda è, si può fare di nuovo la cataratta? No, se la cataratta è stata tolta e si è fatto anche il laser per togliere l'opacità eventualmente secondaria che si è formata, diciamo che altri interventi non ci sono da fare, bisogna vedere qual è la causa di questo abbassamento visivo, può essere anche un'altra cosa, può essere una leggera degenerazione per esempio la retina, può essere qualcosina al nervo ottico, può essere altre cose, cioè non necessariamente è per forza la cataratta. E non necessariamente la cataratta risolve tutti i problemi, bisogna farsi dare un'occhiata dall'oculista, intanto se volete chiamare 800 24 00 24, se non riuscite a farlo scriveteci, il dottor Buratto, entro mezzogiorno dovete farlo, risponderà alle vostre mail. Essere e benessere. Se la tua è una delle facce dell'amore, aiutami tu regalandomi per il mio compleanno gli occhiali dell'amore. E noi invece parliamo non degli occhiali dell'amore, ma degli occhiali da sole, che tra l'altro servono anche un po' per proteggere gli occhi degli allergici, ma non solo, questo è ovvio. Ma allora, dottor Buratto, se abbiamo un paio di occhiali da sole dell'anno scorso, teniamo quello, ma nel caso dovessimo acquistarne un paio nuovo, cerchiamo di comparare bene. Iniziamo dai marchi, dottor Buratti. Quali dobbiamo cercare? Il CE? Dobbiamo cercare il marchio CE. perché per obbligo, diciamo, della comunità europea, tutte le lenti dovrebbero avere una protezione dai raggi ultravioletti almeno del 90% o più. E quindi questo garantisce una grossa protezione contro le radiazioni solari tossiche per l'occhio. Poi l'occhiale può anche essere colorato, ma il colore non è quello che ferma le radiazioni. Il colore toglie il disturbo alla luce. Quindi due sono le cose: il materiale della lente che ferma, diciamo, le radiazioni tossiche, e il colore che toglie il disturbo, diciamo, della luce. Poi c'è anche la luce blu, per esempio adesso ci sono degli occhiali, delle lenti che proteggono dalla luce blu, che è quella, diciamo, che è più tossica e che sta prendendo molto interesse in questo momento, perché è quella che può portare alla maculopatia senile. E ce ne accorgiamo da quali indicazioni dobbiamo trovare nel nostro occhiale? Beh, diciamo, bisogna parlarne con l'ottico, il quale suggerisce poi la lente più adatta per la singola persona. Lenti colorate, alcuni suggeriscono per i miopi lenti di alcuni tipi. Dottor Buratto, questo, diciamo, è vero o no? Il marrone, scelta, il verde, ha senso? Sì, beh, è più una scelta della persona. Diciamo, la persona, quando si trova, diciamo, più confortevole con un certo tipo di colore, può usare quello, non è fondamentale. Diciamo, quello che è fondamentale è che ci sia una buona correzione sulla lente, che la lente abbia le adeguate protezioni, per esempio, non so, l'antiriflesso, c'è anche una protezione contro l'acqua, per dire, se uno vuole, diciamo, utilizzare questi occhiali anche in ambienti umidi. Ci sono occhiali da sole anche ai bambini? Occhiali da sole anche per i bambini, se riusciamo a... Mi piace, se riusciamo a farglieli indossare, perché i bambini non è che... È tremendo delle volte vedere il papà e la mamma con gli occhiali da sole e il bambino senza. Il bambino ha l'occhio molto più delicato dei genitori, deve essere lui protetto e non i genitori, al limite se dobbiamo scegliere, se no una visierina, il cappello con la visierina, ecco, va bene? Quello aiuta moltissimo, certo. Sei proprio il bambino, perché certo, magari i genitori li comprano gli occhiali da sole, ma il bambino non ne vuole sapere. No, diciamo che nella bella giornata di sole uno che porta il bambino in giro deve avere il cappellino che lo protegge dalla irradiazione diretta. La radiazione che arriva riflessa è già decisamente molto meno pericolosa. Non che sia un pericolo, sia ben chiaro, però è sicuramente meglio, un elemento. Se non riuscite a mettere gli occhiali da sole, cappellino con visiera a tutti, bambini e bambine. In linea con noi abbiamo il professor Stefano Tirelli. Buongiorno, professor Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Professor Tirelli, che c'entra lei? Si chiederanno gli ascoltatori. C'entra perché abbiamo pensato che abbiamo parlato di vista. Per vederci chiaro, naturalmente, bisogna avere una vista che funziona, ma per vedere bene dobbiamo anche avere una mente serena. A volte vediamo nero, professor Tirelli, proprio perché siamo arrabbiati, e non a caso proprio magari ci tratteniamo, ma cerchiamo quasi di stringere i pugni, stringiamo i denti per soffocare un po' la rabbia, che sicuramente non è mai una buona consigliera, non ci fa scegliere e vedere bene. Professor Tirelli, le passo la palla. Sì, questa situazione di contrattura generale data da tensioni sicuramente si riversa anche sulla capacità visiva molto spesso. Per esempio l'agopuntura ha in sé delle conoscenze antiche, e se ricordiamo quello che facevano già gli antichi medici era proprio di pungere un punto particolare vicino al polso sul processo stiloideo-radiale, che praticamente è alla fine del pollice in prossimità del polso. Che funzione aveva e ha tuttora, proprio per esempio nell'agopuntura, è quella proprio di alleggerire, di tendere queste tensioni muscolari, che quindi anche a livello del sistema nervoso autonomo propongono un rilassamento maggiore. Allora, quello che io proporrei, magari solo come coadiuvante, come aiuto ulteriore ai radioascoltatori, quando abbiamo queste situazioni di arrabbiature, di tensioni molto forte, di premere col pollice opposto questo punto, è proprio situato nel polso, alla fine del pollice, all'inizio quindi dell'avambraccio, sentiremo una sorta di lieve depressione. Ecco, questo punto viene proprio stimolato. L'ho trovata, l'ha trovata anche il dottor Buratto, ma lui è un medico, la trova subito, però in effetti si segue il pollice, prima che si attacchi al braccio, diciamo così. Bravissima. C'è un buchino, un avvallamento, sì. Quello è il punto magico da toccare, stimolare, fare una leggera pressione quando ci sentiamo che il sangue sale alla testa e ci fa vedere nero, prima sì, di sì. vedere nero, afferratevi il polso. Professor Tirelli, grazie per grazie essere stato con noi, a prestissimo. Dottor Buratto, io la ringrazio, intanto noi ci trasferiamo, se avete scritto una mail il dottor Buratto vi risponderà. Grazie dottore. Grazie a lei Nicoletta, buongiorno. Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, oggi molto sorridente. Laura Vanossi in redazione, a domani. Essere e benessere.